boschi senza alberi, bruciare pieno senza spegnersi, e paradisi senza angeli, fughe di piedi senza sandali. Volti senza lacrime ed occhi secchi come datteri, tra ciechi anfratti lungo i vicoli, come murene rintanandosi senza nascondersi. Sguardi vuoti perdersi, andar lontano senza muoversi, mani affamate ancora immergersi in neri sacchi come oceani, toccare il fondo senza arrendersi. Ho visto cieli tristi inerpicarsi come ederi sui muri, brevi rintocchi di campane su pensieri muti infrangersi. Ho visto scivolare il vento freddo di pennacchi dei respiri, passare come treni su sentieri ancora liberi. E ho visto ancora il soffio dei silenzi formare vortici sui fiumi e pesci scuri sullo sfondo come se fossero sassi. Nubi come gamberi, tornare indietro senza illudersi, e giorni grigi avvicinandosi, mostrare i denti come lupi. Ho visto infermi senza deboli, appesi al sole come grappoli. Ho visto quelle gambe dondolare ad asciugare come panni stesi, queste salire sopra i rami come corde di funamboli. E ho visto l'incoscienza dei sorrisi staccare furti ancora acerbi, saltare giù impaziente e prendere la vita a morsi. Ho visto volteggiare stormi di aquiloni, sollevarsi oltre gabbiani ancora più in alto, in alto ancora fino a perdersi. Ho visto ancora i porchi camminare con i passi sui schiacciati e sulle scalinate, voci di bimbi poi rincorrersi. E ho visto donne ai banchi dei mercati scegliere vestiti dai colori accesi, altre scoperte